mi ritrovo solo nel mio vecchio pub, orrido a vedersi nel suo brutto quiche, ora che non va questa nera vita nella birra nel ghetto. Ora sono un altro, eccitato un po', se venissi adesso io ti brucerei, persi da Madonna, cosa ti sei perso, ho distrutto il miei, perché? Storia che ho vissuto da cosciente, indolente, sempre a marcia indietro nel rispetto di una donna che non vale niente. Cerco nel silenzio la mia identità, non mi disturbate, io risorgerò, nonostante tutto, faticosamente, già ritrovo la mia via. Maledetta questa storia che ho vissuto da cosciente, vedo doppia proprio come sei, diavolo vestito da pecora smarrita, ti conviene andare.